ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio, buona domenica. Rispettiamoci in strada, è questo l'hashtag della manifestazione che il 23 febbraio a Roma, quindi la prossima domenica, punta a portare in piazza diverse categorie di utenti della strada per chiedere più sicurezza. L'appuntamento alle 11 di fronte al Colosseo, è lì che si ritroveranno molte associazioni in rappresentanza di automobilisti, pedoni, ciclisti, motociclisti, familiari delle vittime della strada. Nel 2018, lo ricordiamo, sulle strade italiane hanno perso la vita 3.325 persone, di cui 612 pedoni, 219 ciclisti, ma sono naturalmente pedoni e ciclisti gli utenti più fragili e verso di loro che occorre prestare la massima attenzione e il massimo rispetto. Ma l'idea dei promotori è quella di mettere insieme, forse per la prima volta, le varie categorie di utenti per tentare di trovare una soluzione insieme. Uno dei promotori è Alfredo Giordani della rete Vivi in Strada. Sì, finalmente insieme tutti gli utenti della strada, tra gli utenti del trasporto pubblico, chi si muove a piedi, chi si in bicicletta, chi si muove in bicicletta e tutti i ciclisti, da quelli urbani a quelli sportivi, ai cicloturisti, tutte le vittime della strada, sono veramente tantissime le associazioni che si occupano di questo tema così tragico, a cui le istituzioni ancora, è un tema così serio, così grave, con tantissime implicazioni a livello sociale ed economico, a cui le istituzioni non riescono ancora a dare una risposta veramente seria ed efficace. E voi comunque vi ritrovate in questo slogan "rispettiamoci in strada"? Rispettiamoci è importantissimo, ma il rispetto purtroppo può valere per persone che stanno sullo stesso livello. Invece qui c'è una grave disparità, c'è una grave asimmetria di forze in gioco. C'è chi è protetto da grandi masse pesanti, masse velocissime, e c'è chi invece va in bicicletta. Adesso moltissimi si spostano col monopattino elettrico, c'è chi va a piedi, tantissime, oltre 600 persone semplicemente per attraversare una strada o camminare lungo una strada vengono investite, uccise. Quindi il rispetto, ma anche considerare responsabilmente le differenze. Quindi partire sempre dal più fragile. E sono tante le associazioni che scenderanno in piazza il 23 febbraio al Colosseo sotto l'hashtag "rispettiamoci in strada", ma ci sono anche prese di posizione diverse, come quella di Salva Ciclisti, che sarà in piazza ma non con questo slogan, bensì con "basta morti in strada". La presidente di Salva Ciclisti Roma, Enzina Fasano. Salva Ciclisti Roma sarà il 23 in piazza, ma non con lo slogan "rispettiamoci in strada", bensì "basta morti in strada", perché siamo stati molto critici nei confronti di questo slogan, in quanto si attribuiva alla parte debole della strada, cioè gli utenti deboli, la responsabilità della propria morte. Ecco, invece per quanto riguarda quello che voi chiedete, no, per migliorare la mobilità in ambito urbano, molte cose sembrano comunque, come dire, comuni alle altre associazioni che partecipano a questa mobilitazione. Allora, noi cosa chiediamo? Innanzitutto, col nostro manifesto siamo stati chiari. Innanzitutto chiediamo riforme del codice della strada. Per quanto riguarda la nostra categoria, cioè i ciclisti, l'obbligatorietà del sorpasso perlomeno da macchina auto perlomeno a 1,50 m, l'introduzione del senso unico eccetto bici, l'eliminazione del numero dei ciclisti affiancati, l'eliminazione del margine estremo destro, l'introduzione delle strade scolastiche, delle zone la possibilità di girare sui marciapiedi, ma solo per i bambini, in modo che l'adulto gli vada affiancato e il bambino sia in sicurezza. Mentre per quanto riguarda il traffico motorizzato eccessivo, secondo noi, all'interno delle città, va disincentivato. Come? Realizzando nuove aree pedonali, realizzando attraversamenti rialzati, restringendo semicarreggiata destinata ai veicoli a motore e realizzando piste ciclabili. Detto in poche parole, sì, occorre che diminuiscano all'interno delle città il numero di veicoli privati che circolano. E strade che, come sappiamo, l'abbiamo detto più volte, ne abbiamo parlato più volte in questa trasmissione, restano pericolose per i ciclisti. A testimoniarlo è il caso di Omar Di Felice, campione romano di ultracycling. Era stato ospite di questa trasmissione il 26 gennaio e il 14 febbraio sarebbe dovuto partire per una nuova impresa, il deserto dei Gobi in Mongolia, ma pochi giorni prima è stato investito da un'auto, ha riportato contusioni, ha dovuto forse solo rimandare la partenza ed è di nuovo qui con noi. Ciao Omar, benvenuto. Innanzitutto, come stai? Ciao, guarda, allora sono, diciamo, peggio è passato, nel senso che l'incidente ormai è alle spalle, sto cercando di recuperare il prima possibile e di rimettermi in pista. Diciamo che noi ciclisti siamo abbastanza duri a morire, no? Abbiamo una scorta abbastanza dura. E il problema però in questo caso non è tanto pedalare quanto riuscire poi a affrontare un'avventura come quella che ho programmato in Mongolia, dove comunque dovrò portare come uno zaino del peso e dovrò dormire in tenda a temperature abbastanza basse sotto lo zero, però sono, diciamo, abbastanza, cerco di essere fiducioso e ottimista perché comunque sarebbe potuto andare molto molto peggio. Insomma, noi ci siamo lasciati, abbiamo parlato, presentato questa tua bella avventura che dovevi intraprendere, dovevi partire il 10 febbraio, adesso la partenza è rimandata. Insomma. Ma io spero sinceramente di riuscire a partire nel breve, sto già pedalando un pochino, riabilitandomi, sto facendo molta terapia, esercizi per cercare di tornare al meglio nel tempo più breve possibile. Essendo un'avventura invernale, comunque il suo termine ufficiale dovrebbe essere il 21 marzo, quindi non ho poi così tanto tempo per partire. Ho come limite la data del 22-23 febbraio, diciamo che entro quella data al massimo vorrei cercare di prendere il volo per la Mongolia. Insomma, il 23 febbraio c'è questa manifestazione, questa mobilitazione a Roma proprio a favore della sicurezza stradale, parteciperanno anche molti ciclisti. Noi speriamo che tu sia già partito, ma vuoi comunque lanciare un messaggio? Sì, è una manifestazione ovviamente bella e positiva perché va, diciamo, nella direzione in cui non cerca lo scontro verso gli automobilisti, ma cerca piuttosto, secondo me, la cosa più giusta, che è quello del rispetto reciproco e della condivisione della strada, la strada di tutti, ed è un leitmotiv su cui mi batto spesso anch'io, il fatto che comunque non esiste una proprietà maggiore o minore in base alla grandezza del proprio mezzo, ma la strada appunto è di tutti, di ciclisti, automobilisti, pedoni, motociclisti, e al tempo stesso all'interno di queste categorie non si può fare discriminazione tra chi usa la strada per andare a lavorare e chi usa la strada per andare in vacanza o per divertirsi o, come nel mio caso, per allenarsi. Purtroppo troppo spesso si assiste invece a questo gioco tra le fazioni che io non riesco onestamente a comprendere, dove sembra quasi che chi ha il mezzo più grande e quindi paghi le tasse secondo lui maggiori abbia più diritto ad occupare la strada. Ecco, io spero che questa manifestazione, mi auguro e credo sia così, insomma, possa alleggerire un po' i toni di questa discussione troppo accesa che si sta riversando sulle strade e faccia sì finalmente che si riesca a trovare, diciamo, un punto di contatto e soprattutto ad allestire un tavolo di discussione dove tutte quante le rappresentative delle varie parti possano effettivamente studiare un piano prima ancora che normativo e sociale ed educativo. Quindi va bene anche il rispetto da parte del ciclista nei confronti dell'automobilista, perché alcune associazioni hanno duramente contestato questo claim rispettiamoci in strada. Ma allora io non, nel termine rispetto non so cosa ci sia, non riesco a capire cosa ci possa essere da contestare, non conosco le polemiche specifiche anche perché non mi piace mai entrare nel gioco delle parti, ma mi piace tutelare in primis la parte più debole ed è fuori discussione che la parte più debole sia che ha il mezzo più esposto all'incidente, quindi il pedone e il ciclista. Partendo da questo presupposto, però, è chiaro che la strada è di tutti ed è di tutti nella misura in cui dobbiamo rispettarci, quindi noi ciclisti per primi dobbiamo essere rispettosi e non dobbiamo porci sulla strada come unici, diciamo, rappresentanti della stessa o appunto occuparla andando a intralciare il traffico. Allo stesso modo dall'altra parte ci deve essere tolleranza e comprensione verso un mezzo, la bicicletta, che non ti consente di correre come un'automobile. Quindi io non riesco a capire sinceramente dove possa essersi una polemica laddove c'è alla base un titolo giusto, che è quello di rispettarsi. Secondo me il titolo Rispettiamoci Strada è quanto mai attuale e quanto mai esatto per quello che poi deve essere, secondo me, il tema del messaggio da andare a comunicare. Bene, grazie Omar Di Felice, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Se posso permettermi solo un'ultima cosa, questa la voglio dire ai ciclisti, al di là del rispetto, è quello di indossare sempre il casco. Per me è un tema molto, molto caldo. Leggo spesso a volte degli attriti tra chi dice che servirebbe o rendere obbligatorio e chi dice di no. Io nel dubbio vi dico: il casco indossatelo, perché come nel mio caso, cui io sono caduto battendo il capo e spaccandolo a metà, vi dico mettetelo, perché nel dubbio sicuramente può salvarvi la vita. Insomma, tu l'hai sperimentato in prima persona. Grazie mille, grazie, buona giornata, in bocca al lupo. Grazie Alessandra, ciao. E dunque seguiremo l'impresa di Omar Di Felice, ve ne daremo conto, così come la manifestazione del 23 febbraio a Roma. Ma ora ci fermiamo qua, buona domenica e buone pedalate a tutti.